GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Manovra d'autunno, la Giunta vara una prima versione da quasi 43 milioni, ma sarà integrata con i sostegni per i rincari energetici. Bollette alle stelle, nell'anno del boom turistico a Trieste alcuni alberghi vanno verso la chiusura. Udine ha aperto il cantiere all'ex Dormish, nell'area troveranno spazio la nuova sede del Malignani e un parco verde coperto. Covid, ripartono i contagi, ma negli ospedali la situazione è sotto controllo, a Pordenone apre il nuovo centro vaccinale. 3 anni fa la strage in questura, il ricordo degli agenti uccisi, mentre la Procura Generale sta per presentare l'atto d'appello contro l'assoluzione dell'omicida. Indice di criminalità, Trieste in cima alla classifica italiana per violenze sessuali. Il questore spiega: dipende dal nostro lavoro e dalle campagne che spingono le donne a denunciare ogni violenza. Calcio, l'Udinese vola a Verona, Scaligeri battuti 2-1 in rimonta. La squadra di Sottil è terza, ora la sfida all'Atalanta. Contro la solitudine, la Caritas apre un nuovo spazio di socializzazione a Borgo Pracchiuso, ma servono più volontari, l'appello del responsabile. Martedì 4 ottobre, 7:19 minuti, 30 secondi, buona giornata da Giampaolo Mauro e Francesca Terranova. Subito uno sguardo alla situazione del tempo, nuvolosità variabile sul Friuli Venezia Giulia. Queste le temperature registrate alle 6. A Trieste 16 gradi, il mare quasi calmo e a una temperatura di 21 gradi. A Gorizia 13 gradi e 5 decimi, a Udine 12, a Pordenone 11. Nell'area montana, a Tolmezzo 10 gradi, a Tarvisio e a Sappada 2 gradi e 5 decimi, a Forni di Sopra 8, sul Piancavallo 5 gradi, sul Lussari 5, sullo Zoncolan 0 gradi. Sulla costa a Grado e a Lignano 16 e 5 decimi, temperatura del mare nelle due località 19 gradi. Le previsioni oggi dalla costa alle Prealpi, il cielo sarà variabile, a tratti probabilmente anche nuvoloso, sulle zone montane più interne ed in quota, tempo migliore, con cielo poco nuvoloso. Sulla costa vento debole da est al mattino, poi venti debole a regime di brezza. Vale poco meno di 43 milioni di euro la prima versione della manovra autunnale approvata ieri dalla Giunta regionale. La posta più significativa riguarda la sanità, ma sono già cominciati i primi confronti su come affrontare il nodo dei rincari energetici. 42 milioni e 700 mila euro, destinati in particolare alla sanità e alle agevolazioni per la prima casa per i carburanti. È questo il valore del disegno di legge sulle misure finanziarie multisettoriali urgenti, varato dalla Giunta regionale, la manovra finanziaria autunnale che approderà in consiglio a fine mese. Lo stanziamento principale, ha spiegato l'assessore alle finanze Barbara Zilli, è relativo a un'integrazione di 30 milioni di euro a favore del sistema sanitario regionale. Ci sono poi 7 milioni destinati a completare le istanze dell'edilizia agevolata per la prima casa presentate quest'anno e 4 milioni che servono a confermare il bonus benzina per l'annualità 2022. Il disegno di legge, inoltre, prevede di destinare 200.000 euro all'ente tutela patrimonio ittico come contributo per i rincari di energia elettrica, gas e carburanti e di erogare contributi una tantum ad altri enti, sempre per contrastare il caro bollette. Fino a 100.000 euro al Consorzio di Pordenone per la formazione superiore, gli studi universitari e la ricerca, fino a 150.000 all'Università della Terza Età e delle Libere Età e fino a 180.000 agli istituti tecnici superiori della Regione. In questo momento critico, la questione principale da affrontare è l'effetto della crisi energetica, ha detto Zilli. Le poste allocate nel provvedimento sono un primo pacchetto di misure che danno avvio all'iter. Nelle prossime settimane, prima della presentazione in aula, irrobustiremo ancora l'assestamento con ulteriori risorse, anche per altri settori come l'agricoltura e le infrastrutture. Trieste, Daniele Lettig, TGR Friuli Venezia Giulia. Sarà lo stesso presidente della giunta regionale a reggere anche l'assessorato ai trasporti dopo l'elezione di Graziano Pinzimenti in Parlamento. Non riassegnerò le deleghe, penso sia un atto di serietà visto che alla scadenza del mandato mancano solo 6 mesi, ha dichiarato Fedriga, che ha aggiunto: in questo periodo mi confronterò con i professionisti della direzione insieme ai quali porterò avanti gli argomenti ancora sul tavolo. Proprio nell'anno del boom, gli hotel sono costretti a valutare un'eventuale chiusura nei periodi di bassa stagione. Sta succedendo un po' in tutta Italia e ci sono addirittura importanti catene che hanno deciso lo stop, e tutto per colpa delle bollette salatissime. A Trieste, dove il turismo estivo ha ripreso bene e durerà ancora per tutto il mese di ottobre, si stanno valutando chiusure tra novembre e dicembre, ma soprattutto nel primo trimestre del nuovo anno. O degli alberghi in penombra, la luce si accende solo quando il turista arriva. È un segnale, certo, ma dà l'idea di come qualunque misura serva a far fronte al caro energia. Lo sanno bene in questo hotel del centro di Trieste, gestito da 40 anni da due sorelle, Cristina e Daniela, terza generazione di albergatori costrette ad aumentare i prezzi del 15-20%. Abbiamo dovuto aumentare i prezzi e li terremo anche d'inverno, che di solito sono più bassi, pensiamo di tenerli alti come quelli dell'estate. Bollette esorbitanti, le ultime, e l'aumento appena annunciato del più 60% preoccupa ulteriormente. Sulla luce, l'ultima bolletta che abbiamo avuto, dai 2.500 dell'anno scorso siamo arrivati a 9.600. Ci spostiamo in un altro hotel, 100 anni di storia alle spalle, ma non ha mai chiuso un giorno, è rimasto aperto persino durante la Seconda Guerra Mondiale. Stefano Sterna, albergatore. Siamo alla quarta generazione, non abbiamo chiuso neanche durante il Covid. Adesso con le bollette, le ultime arrivate, sì, ci stiamo pensando alla possibile chiusura, perché far fronte a quel tipo di aumento è un po' dura. E dire che la macchina turistica aveva ripreso bene, tornando ai numeri pre-pandemia, ma il più 10% di presenze non basta a pagare il più 300% del costo delle bollette. Luglio dell'altro anno 3.200 euro, luglio di quest'anno 7.800. Poi, ancora più scioccante, l'ultima, ed era agosto, 3.800 l'altro anno, 11.200 quest'anno. È l'intero comparto a soffrire, perché se questo mese ci si salva tra Barcolana, congresso medico e fiera del caffè che porterà 5-6.000 persone a fine ottobre, a spaventare è il dopo. Guerrino Lanci, presidente Federalberghi Trieste. Quello che preoccupa grandemente, al di là di quello che succede dal 2 novembre, che già ci preoccupa, è quello che succederà dal 2 di gennaio. Molte strutture oggi non stanno vendendo, lo si può vedere anche sui Booking, su Expedia, sulle varie Olta, non stanno vendendo nel periodo dal 2 di gennaio fino alla fine di marzo. Questo perché non sanno se saranno aperte. Trieste, Navitaliani TGR Friuli, Venezia Giulia. La cronaca, un brutto incidente a Casarsa della Delizia sulla statale, avvenuto questa mattina poco prima delle 7, si è ribaltato un camion dell'immondizia, il conducente è rimasto incastrato nell'abitacolo e la squadra dei vigili del fuoco di San Vito lo ha estratto a fatica, l'uomo è ferito ma non in pericolo di vita, non ci sono altri veicoli coinvolti. C'è anche un parco verde coperto a caratterizzare il futuro volto dell'area ex Dormish a Udine, il cantiere è stato avviato ieri mattina. Al posto del birrificio sorgerà la nuova sede dell'Istituto Malignani. Da ex birrificio a fabbrica della formazione del sapere, dopo la bonifica dall'amianto all'ex Dormish sono iniziate le demolizioni. A settembre 2024 la corte di Porta Villalta potrà ospitare gli studenti del MITS Academy, l'Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie del Malignani di Udine. Visione che diventa realtà grazie alla Danieli, proprietaria dell'area, che finanzia il progetto con 25 milioni di euro. Una riqualificazione che rappresenta, secondo il presidente della Regione Federica, un modello lungimirante in cui la parte formativa si sviluppa insieme alle grandi realtà industriali per dare risposte all'enorme carenza di professionisti nei settori produttivi. La struttura, secondo il progetto, sarà caratterizzata dai principi della modularità e della sostenibilità, soprattutto in termini energetici, con pannelli solari e idroturbine. L'architetto Marco Zito. La sostenibilità inizia oggi con la demolizione, perché recuperiamo 1.500 tonnellate di acciaio che entrano di nuovo nella filiera grazie a Danieli. 6.000 i metri quadrati dedicati all'Istituto Tecnico Malignani, poi spazi per eventi commerciali e un parco verde. Dai 325 studenti di oggi dislocati in 3 sedi, l'obiettivo è raggiungere quota 600 da ospitare nel nuovo complesso. Paola Perabò, vicepresidente ITS Malignani. È un obiettivo ambizioso, dato il periodo che stiamo vivendo, in cui sappiamo che la natalità comincia a farsi sentire. Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Si svolgeranno domani pomeriggio a Vigonovo di Fontana Fredda i funerali di Armando Cimolai, l'imprenditore pordenonese morto domenica sera all'età di 94 anni. Le esequie saranno celebrate nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta con inizio alle 16. La nuova ondata autunnale di Covid ha rialzato il numero dei contagi, ma questa volta gli specialisti non sono preoccupati. Gli ospedali non sono sotto pressione come lo scorso anno. Il virus si presenta con caratteristiche simili all'influenza stagionale che a sua volta sta circolando. Sul fronte dei ricoveri, dato cruciale per comprendere l'andamento della pandemia, i pazienti Covid nei reparti ordinari sono in aumento, 174 nelle ultime 24 ore contro i 162 del giorno prima, aumentati anche rispetto all'autunno scorso, ma l'occupazione degli ospedali continua a essere sotto controllo e i reparti non sono sotto pressione, fanno sapere gli infettivologi da Trieste, Udine e Pordenone. Per la gran parte si tratta di ricoverati con e non per Covid, spiegano. In aumento da 2 a 5 anche i pazienti nelle terapie intensive. Tra i pochi casi più impegnativi, per la gran parte fragili, non vaccinati, non si vedono più polmoniti gravi, ma sintomi simili all'influenza stagionale, riferiscono ancora gli esperti. Lo stesso tra i positivi gestiti a domicilio. La riapertura delle scuole, l'attenuazione delle misure di protezione, il ritorno delle grandi manifestazioni e un settembre con temperature sotto la media, i fattori che a loro avviso hanno innescato la nuova ondata che oggi vede l'incidenza settimanale sfiorare i 600 casi per 100.000 abitanti. Il laboratorio di riferimento regionale per il sequenziamento del Covid rileva intanto la ancora bassa circolazione dell'ultima variante Centaurus e che sotto traccia sta circolando anche l'influenza. Senza ormai più restrizioni, a cominciare dalle mascherine, occorre evitare gli effetti di una doppia ondata dei due virus, soprattutto negli ospedali. Fondamentale resta la prevenzione coi vaccini, anche gli anti-influenzali, lanciano medici e infettivologi, ma l'adesione al richiamo anti-Covid, soprattutto tra fragili e over 60, è ancora scarsa, osserva l'assessore alla salute Riccardi, con un nuovo invito a non abbassare la guardia. Lara Boccalonti, GR Friuli Venezia Giulia. Intanto a Pordenone è stato allestito il nuovo hub vaccinale nato su sollecitazione degli industriali e dei sindacati con la collaborazione dell'azienda sanitaria e di enti e associazioni del territorio. Nel fine settimana sarà attivato. Sarà operativo da sabato prossimo il nuovo centro vaccinale allestito nell'oratorio della parrocchia del Beato Dorico a Pordenone. 4 postazioni e una capacità di 240 vaccinazioni, dalle 13 alle 18 ogni venerdì e sabato, con possibilità di estendere orari e giornate di apertura. A disposizione di imprese e cittadini nasce dalla sinergia tra industriali, sindacati, comune, azienda sanitaria e parrocchia con Croce Rossa e Cooperativa Medici Cure Primarie del Friuli Occidentale. È cruciale in questa fase fare la quarta dose abbinata al vaccino antinfluenzale, ha detto il presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Grusti, che nei prossimi giorni incontrerà le organizzazioni sindacali per rinnovare i protocolli anti-Covid sul lavoro. È un'esperienza che abbiamo già maturato e consolidato, abbiamo dimostrato l'efficacia e l'efficienza dell'organizzazione che abbiamo messo in piedi e speriamo che la gente, soprattutto le categorie più fragili, vengano a vaccinarsi perché ce n'è assoluto bisogno. I contagi sono in crescita, la stagione influenzale alle porte, mentre il trend di vaccinazioni è in calo. Lucio Bomben, direttore Dipartimento Prevenzione ASFO. Abbiamo avuto un incremento del 60% di positivi rispetto alla settimana scorsa, anche stando ai dati del Ministero e del GIMBE. La quarta dose perché è importante? Perché l'unico efficace rimedio per ridurre il tasso di positività è e rimane il vaccino. E quindi questo qua, specialmente se somministrato ai soggetti più fragili, può ridurre il tasso di ospedalizzazione e anche il tasso di mortalità. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il benessere dei pazienti in ospedale, soprattutto gli adolescenti e i bambini, ma anche il benessere di chi lavora in ospedale e negli ambulatori. Inizia poco dopo mezzogiorno a Udine la Dimoret, l'ottava conferenza regionale della rete HPH, nata proprio per prendersi cura di questi aspetti, un tempo molto più trascurati in ambito sanitario. L'attività è in collaborazione con il percorso Cura dei Curanti dell'Istituto Superiore di Sanità ed è descrivibile come un programma multidisciplinare per lo sviluppo individuale e organizzativo del contesto sanitario. Sono passati 3 anni dalla strage in questura a Trieste che è costata la vita agli agenti Matteo De Menego e Pierluigi Rotta. Stamattina alle 9:30 saranno ricordati con una messa nella chiesa della Beata Vergine. La cerimonia sarà preceduta dalla deposizione di una corona nel famedio della questura. Intanto la Procura Generale sta per presentare l'atto d'appello contro l'assoluzione dell'omicida Leandro Stefan Meran. Il processo di secondo grado si svolgerà l'anno prossimo. Il 32enne domenicano era stato assolto a maggio dalla Corte d'Assise di Trieste per vizio mentale, ma secondo la sentenza Meran è pericoloso e bisognoso di cure. È detenuto a Verona, ma dovrebbe trascorrere 30 anni in una REMS, una residenza sanitaria assistita. Dopo 5 mesi non si è ancora trovato un posto disponibile in nessuna delle 31 strutture italiane. Proseguiamo con la cronaca. 2 chili di hashish e 120 grammi di cocaina sono stati trovati dalla Guardia di Finanza nell'abitazione pordenonese di un 29enne che è stato arrestato. L'uomo è un afghano in Italia da oltre 10 anni. Gli uomini delle Fiamme Gialle hanno trovato in casa sua anche un rilevante importo in contanti, più di 39.000 euro, possibile provento dello spaccio, un volume d'affari che secondo gli investigatori è improbabile gestisse da solo. Non è escluso dunque che le indagini riservino ulteriori sviluppi. L'arrestato ha precedenti specifici e per questo veniva tenuto d'occhio. Quest'anno in Italia i dati relativi alla criminalità sono in calo rispetto a 2 anni fa, ma la nostra regione va in controtendenza, lo dice il Sole 24 Ore, che ha calcolato l'indice di criminalità di ogni provincia, cioè il numero di reati denunciati ogni 100.000 abitanti. A Pordenone l'aumento sfiora il 16%, segue Trieste con l'11%, poi Udine e Gorizia. Informazioni che non devono però trarre in inganno, in quanto restiamo ben lontani dai vertici di criminalità. Trieste si piazza al 19° posto, al 57° troviamo Gorizia, Udine 94esima e penultima Pordenone. Spiccano però alcuni dati negativi. Gorizia è la città d'Italia con il numero più alto di truffe e frodi informatiche denunciate. Trieste è prima in Italia per violenze sessuali, tentati omicidi e lesioni dolose. Sentiamo come commenta questi dati il questore di Trieste, Pietro Ostuni. Su alcuni reati c'è effettivamente un aumento, parliamo dei delitti informatici, così come sulla violenza sessuale registriamo un decremento per fortuna. Il numero dei furti è più o meno equivalente, forse qualcosina in più, ma parliamo di una trentina di furti in più rispetto allo scorso anno, sicuramente decisamente inferiore rispetto al dato del 2019. Il 2020 non lo prendiamo in considerazione perché è l'anno del lockdown. Per quanto riguarda anche gli stupefacenti, registriamo un decremento rispetto a tutti gli anni precedenti. A livello di numero dei reati passiamo da 5.900 del 2020 a 6.129, quindi il confronto è stato fatto da Sole 24 Ore proprio sul 2020, però se noi lo confrontiamo col 2021 c'è invece un decremento. Possiamo dire che questo lavoro fatto dal Sole 24 Ore, che ci mette a confronto con le altre province d'Italia, in realtà fa emergere un grande lavoro da parte delle forze dell'ordine, da parte dei centri antiviolenza. A noi andiamo a stimolare le denunce, lo dico molto, molto francamente, ecco perché le dicevo, Trieste è una città dove si denuncia veramente tanto, no? Io ho fatto il questore in un'altra realtà, a volte il piccolo furto che si subiva su auto non veniva denunciato. O la violenza sessuale. Sì, parliamo soprattutto delle violenze sessuali che avvengono nell'ambito di rapporti familiari o di rapporti di coppia. 4ª edizione di Una Rosa per Norma Cossetto, la manifestazione organizzata dal Comitato 10 febbraio nell'anniversario della morte della giovane istriana uccisa dai partigiani jugoslavi tra il 4 e il 5 ottobre del 1943. Iniziative sono in programma in diverse città italiane sotto il titolo Una scelta d'amore. Li chiamano nomadi digitali, si spostano affittando per breve periodi alloggi privati dai quali lavorano online. E ciò che importa loro naturalmente è un'ottima connessione. Secondo Airbnb, la nostra regione è una delle mete privilegiate per questo tipo di clienti. Promuovere il turismo ma anche attrarre talenti sono gli obiettivi del bando Vivi e Lavora Ovunque promosso dal principale portale online di affitti brevi turistici, di cui il Friuli Venezia Giulia è risultato uno dei 20 vincitori in tutto il mondo, insieme a mete come Bali e le Canarie. Il bando era volto a selezionare i luoghi più adatti per nomadi digitali, ovvero quelle persone che girano il mondo lavorando ovunque grazie al computer e alla connessione internet, diventati più numerosi dopo la pandemia. Alessia Rosolen, assessore regionale al lavoro. La regione Friuli Venezia Giulia si è candidata l'anno scorso, siamo una delle dei due luoghi sul territorio nazionale, uno dei 7 sul territorio europeo e concorriamo con quello che è un'azione che viene già svolta in molti paesi del mondo. La piattaforma promuoverà il Friuli Venezia Giulia con una pagina dedicata con gli annunci di alloggi più adatti per viaggiatori e lavoratori. La regione introdurrà agevolazioni per nomadi digitali italiani e stranieri, tra cui la FVG Card gratuita e posti riservati in alcuni eventi culturali. Giacomo Trovato, responsabile Italia piattaforma turistica. Noi pensiamo davvero che questa sia la regione perfetta perché i lavoratori in remoto, magari provenienti da un altro paese, possono entrare veramente in contatto con un paese di destinazione. L'idea è quella di favorire un turismo che non si limiti alla stagione estiva, obiettivo condiviso anche dal Convention and Visitors Bureau di Trieste, struttura nata un anno e mezzo fa che ha presentato le sue attività passate e future nella creazione di pacchetti turistici e nella promozione di mostre ed eventi, un tipo di turismo che mostra buoni risultati in regione. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. A Gorizia la 17ª edizione di Gusti di Frontiera, che ha totalizzato più di 600.000 visitatori, lo afferma una nota del comune secondo la quale gli oltre 320 stand hanno lavorato in 2 giorni quanto avevano fatto in 4 nell'edizione del 2019, considerato che giovedì e venerdì la pioggia è caduta a scrosci. Oltre al fatto che molti espositori hanno dovuto rinforzare le scorte o chiudere prima del tempo per averle esaurita. Una misura del successo della manifestazione anche nel grado di riempimento dei quasi 50 treni speciali che hanno raggiunto Gorizia dalle altre zone della regione. Tra i successi più clamorosi di questa edizione, la carne di cammella australiana, le banane fritte africane, il kebab con oltre 1.000 chili e i maxi cannoli ungheresi, i kurtosh, dominatori di ogni classifica. Alta moda in passerella Udine in Piazza Libertà questa sera alle 20.30 per la seconda edizione di Udine Fashion Night. La sfilata, organizzata da Barbara Beltrame e Anna Mareschi Danieli, vede come ospite d'eccezione Gabriella Carlucci. In passerella più di 100 abiti da sposa, haute couture e prêt-à-porter uomo-donna per omaggiare il lavoro artigianale friulano. In questi tempi in cui spesso le serrande si abbassano fa notizia quando una saracinesca invece si alza, specie se si tratta di un servizio gratuito della Caritas pensato per aiutare la socializzazione. Così da oggi pomeriggio alle 15.30 apre a Udine, di fianco alla sede del Fogolar in via Pracchiuso, uno spazio aperto a tutti, in primis agli anziani. Qui si possono prendere i libri messi a disposizione dalla biblioteca civica, ma non solo. Servono però più volontari per riuscire a tenere aperta tutta la settimana. Sentiamo l'appello del responsabile del centro Caritas, Alberto Barone. Apriamo uno spazio al quartiere, ma non solo, alla città intera, alle persone che vogliono trascorrere un po' di tempo insieme, perché una delle forme più subdole di povertà è proprio la solitudine. Questo periodo dove per molto tempo le persone, gli anziani, sono rimasti chiusi in casa, si sono anche disabituati ad uscire, hanno un po' di paura. Allora, un luogo accogliente dove ci sono degli operatori, e adesso mi aggancio all'appello, è un gruppo che stiamo formando di volontari per la gestione di questo punto. Attualmente verrà aperto 2 volte a settimana, il mercoledì dalle 15 alle 17 e il sabato mattina dalle 9 alle 12. Ma la speranza è quella di riuscire a aprirlo in modo stabile durante la settimana, e questo, in quanto noi organizzazione di volontariato, sicuramente sarà delegato al volontariato. Quindi l'appello è anche per altre associazioni del territorio che abbiano bisogno di uno spazio dove portare avanti le proprie iniziative, se volessero? Questo è uno spazio dove si possono pensare a dei corsi di formazione, ad esempio, no? Cioè tutto ciò che ruota intorno alla cultura. Fare lettura ad alta voce, ci sarà una stazione internet per poter cercare lavoro, per poter dedicare uno spazio, anche fornendosi del supporto dei volontari, uno spazio che possa essere anche utile e funzionale per magari appunto le persone anziane che non hanno capacità di andare su internet, ad esempio, fare degli acquisti, un luogo di relazione, perché al centro vogliamo mettere la relazione. Il filosofo Massimo Cacciari interverrà questa sera al dibattito dal titolo Io credo, religiosi e laici sulla stessa strada nella ricerca del maggior bene possibile per tutti, in programma al Centro Balducci di Zugliano alle 20.30. L'incontro sarà introdotto da Don Paolo Iannaccone e da Giampaolo Carbonetto. E adesso la pagina della cultura e degli spettacoli. Proseguono a Pordenone le giornate del cinema muto. La proiezione principale, quella delle 21 al Teatro Verdi, è Una vera signora, in originale The Lady, del 1925 di Frank Borzage. Il titolo in italiano è anche una definizione perfetta per la protagonista, Norma Talmage, in cui è dedicata anche la retrospettiva delle giornate. Negli anni 10 e 20 era una star assoluta, tuttavia la sua fama si è eclissata in modo totale negli anni successivi a quelli del muto. Lo studio dei suoi lavori è cominciato dopo il ritrovamento di una collezione dei suoi film che parevano diventati irreperibili. Norma Talmage sarà anche protagonista di alcune proiezioni della mattinata e dei suoi costumi di scena si parlerà in un incontro con Deborah Nadulman Landis, una delle costumiste più celebri di Hollywood, e con John Landis, regista di Animal House e The Blues Brothers, appassionato del film muto, in questi giorni a Pordenone. Ancora per il programma del festival, nel pomeriggio saranno presentati due documenti storici su Re Nicola di Montenegro, soprannominato il suocero d'Europa per aver maritato 5 delle 9 figlie con famiglie reali, e Elena fu regina d'Italia. Si apre oggi la campagna abbonamenti per la nuova stagione del Teatro Verdi di Gorizia. Fino a martedì 11 gli abbonati dello scorso anno potranno confermare, ampliare o variare il tipo di abbonamento in essere. Potranno inoltre acquistare l'abbonamento Verdi Young e i nuovi abbonamenti Eventi Fan, Eventi Family e Verdi Racconta. La musica per vendite a gonfie vele per il tour teatrale di Elisa, tutte le date sono andate esaurite in breve tempo, stessa sorte per quanto riguarda la tappa triestina al Politeama Rossetti il 1 dicembre, ma l'organizzazione ne ha aggiunto una seconda per il giorno successivo. Pertanto la cantante monfalconese si potrà ascoltare a Rossetti anche il 2 dicembre. 7:44, lo sport, calcio, l'Udinese continua a stupire, batte 2-1 il Verona in trasferta e in classifica risale al terzo posto a una lunghezza dalle battistrada Napoli-Atalanta. Questa sarà la prossima avversaria, domenica al Friuli. È stata una bella prova di maturità, dice l'allenatore bianconero Sottil. Per i friulani, vittoria in rimonta. Dopo il gol scaligero nel primo tempo, nella ripresa pareggia Beto e nel recupero Biol di testa firma il successo. Arriva da Verona il sesto squillo consecutivo dell'Udinese, che con il 2-1 strappato in pieno recupero al 20 godi dopo essere passata in svantaggio nel primo tempo, è ora terza in classifica a una sola lunghezza dalle capolista Napoli e Atalanta. Dopo alcune buone occasioni capitate nell'ordine sui piedi di Makengo, Perez e Deulofeu, è il Verona a passare in vantaggio a metà tempo con l'esterno scozzese Doig, che al volo di collo esterno batte imparabilmente Silvestri. Colpita a freddo, la squadra di Sottil reagisce e nella parte finale della prima frazione di gioco mette in crisi la difesa scaligera ancora con Wallace, che sugli sviluppi di un angolo sfiora il bersaglio dopo un cross manacciato fuori aria dall'estremo difensore di casa. La ripresa comincia con ritmi più bassi, ma l'Udinese mantiene il possesso di palla alla ricerca del pari. Arriva una buona occasione per Lovric, che apre il piatto destro ma non trova la porta per un soffio. Entra Arslan al posto di Lovric e prova subito la conclusione a giro dal limite, trovando la risposta di Montipò in angolo. E dopo una punizione da fermo di Samardžić, il cui sinistro sibila la traversa, un minuto dopo arriva il pari firmato da Beto, subentrato poco prima a Makengo, servito da Deulofeu, il cui destro raso terra sul primo palo non lascia scampo. Sembra finita, ma al terzo minuto di recupero l'Udinese va in paradiso con un bel colpo di testa di Bijol su perfetta punizione di Samardžić sul secondo palo. Per i friulani 6 vittorie nelle prime 8 partite, continua il grande sogno grazie alla partenza migliore della propria storia nel massimo campionato. Giorgio Beers, TGR Friuli Venezia Giulia. Vela, mancano 5 giorni alla Barcolana, con iscrizioni ormai a quota 1300. Tra le manifestazioni di oggi, la Barcolana per il sociale con il trofeo Fuori Vento e il trofeo Calicanto. In programma anche un focus sulla disabilità mentale. Al via gli appuntamenti di Barcolana Job, il format dedicato al lavoro e alla formazione. Le iniziative si svolgono fino a venerdì negli spazi del Porto Vecchio e in altre 16 cittadine, con momenti di incontro incontro e dialogo con imprese, professionisti, testimonial ed esperti. In mare è in programma una regata costiera per il trofeo Porto Piccolo riservato alla categoria Maxi, a cui partecipa anche l'attesa Deep Blue. A bordo di ogni imbarcazione ci sarà uno degli chef stellati che questa sera cucineranno appunto a Porto Piccolo alla cena benefica organizzata con la DOC Prosecco. Ciclismo: si disputa nel pomeriggio l'85esima edizione della Coppa Città di San Daniele, classica per Elite e Under 23, percorso di grande spessore tecnico, 140 km con 6 giri di un circuito iniziale che faranno da prologo alle due tornate conclusive con il doppio Gran Premio della Montagna posto sul Monte di Ragogna. La partenza a San Daniele alle 13 da via Kennedy, arrivo nella stessa città in via Umberto I verso le 16:40. 7:48 la rassegna stampa, partiamo dal Messaggero Veneto, edizione del Friuli, che apre con le elezioni comunali di Udine che ci saranno l'anno prossimo. Fedriga rilancia Fontanini, che però prende tempo. L'ex rettore De Toni apre alla sua candidatura col centrosinistra. Al centro l'abbraccio dei giocatori dell'Udinese al termine della partita di ieri, la sesta vittoria consecutiva per loro che volano al secondo posto in classifica. Di lato la crisi, un altro supermercato al centro di Udine costretto ad abbassare le serrande, i 5 dipendenti a casa. In taglio basso arrivano le prime condanne per il corteo dei no mask che si tenne a dicembre del 2020, 200 partecipanti, condannati gli organizzatori Alessandro Gallo, 52 anni di Udine, e Mauro Grimolizzi, devono pagare 850 euro di ammenda. La notizia principale di cronaca cittadina è per le ruspe in azione nell'ex birrificio Dormish che sarà una scuola. L'edizione di Pordenone ha come titolo principale sabato nell'oratorio vaccinazioni anti-Covid nel centro della parrocchia del Beato Dorico non saranno però somministrate dosi contro l'influenza. Siamo al Piccolo, il titolo principale è dedicato all'indagine sul lavoro a distanza. Il Friuli Venezia Giulia attira i nomadi digitali. Sull'edizione di Trieste spazio anche al vertice dei manager di Generali. Ieri a Palazzo Berlam erano presenti tutti e 57 gli amministratori del gruppo. Una foto di gruppo li ritrae sulla prima pagina del quotidiano. Altri temi economici nella cronaca cittadina: il raddoppio dei croceristi, sono stati 400.000 in 9 mesi, e poi la nuova guida dei bar d'Italia con l'ingresso del Caffè San Marco nella lista dei migliori. Ampio spazio naturalmente per la marcia di avvicinamento alla Barcolana. Nelle 4 pagine speciali che vi dedica il Piccolo si trovano anche i servizi sul trofeo al femminile e sul record di Diego Paoletti, che ha partecipato a tutte le edizioni. Barcolana in primo piano anche sull'edizione di Gorizia e Monfalcone. Si sottolinea in questo caso l'anima bisiacca della Coppa d'autunno con il gran movimento nei marina aspettando la regata. A Gorizia si parla ancora di gusti di frontiera, per l'edizione 2023 ci saranno spazi ancora più ampi, intanto per quella appena conclusa, scrive il Piccolo, è stato calcolato un indotto da 4 milioni di euro. E sempre a Gorizia si attende il rilancio del Pala Bigot, dopo la ristrutturazione ospiterà anche spettacoli ed eventi. Passiamo alla pagina di Pordenone del Gazzettino del Nord-Est, che apre con Covid e influenza. Ecco le sentinelle, una 60 di medici di base avranno 2 tamponi in ambulatorio, uno per il coronavirus, uno per i virus influenzali. Toccherà a loro fare la guardia al territorio, la diagnosi in tempo reale, ci saranno dati freschi e aggiornati. Intanto i contagi risalgono in 7 giorni il 60% in più. Al centro la foto del capitano d'industria Armando Cimolai, deceduto domenica all'ospedale di Pordenone. Dall'officina a un impero, domani a Vigo Novo, l'addio dove tutto è nato, questo il titolo. Seguono poi 2 pagine a lui dedicate. Sempre dalla prima pagina del Gazzettino di Pordenone, richiamo sulle fognature a cui ancora tanti palazzi del centro non sono allacciate, così sporcano le rogge e attirano i ratti. In basso il calcio nero-verdi, il problema è un attacco che non punge. L'edizione di Udine del Gazzettino mette invece al centro pagina la vittoria dell'Udinese e poi in taglio basso la storia di un giovane liutaio di Udine, trentenne Luca Zerilli, che realizza strumenti da 15.000 euro usando l'abete rosso di Tarvisio e li vende anche in America e in Cina. C'è tempo ancora per la segnalazione di alcuni appuntamenti. A Udine saranno presentati oggi alla cittadinanza i recenti lavori di restauro agli affreschi dell'Arcosanto nella chiesa di San Francesco in Largo Ospedale alle 18.30. È in programma un concerto dal titolo I colori dell'armonia con il coro e l'orchestra del Friuli Venezia Giulia. Cambia sede lo sportello al pubblico di Consorzio per l'acquedotto del Friuli Centrale CAFC di Tolmezzo. Da oggi è in via Prometeo Candoni 94. Per accedere a questo sportello bisogna prendere appuntamento chiamando il numero verde 800 713 711. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le notizie più importanti della mattinata a cura della nostra redazione. Alle 11.10 la rubrica In Friulano parlerà di orti di comunità. A seguire ritorna Radar nella scaletta della rubrica scientifica. SOS asteroidi, prove di difesa planetaria, la campagna Nastro Rosa per la prevenzione del tumore al seno, il libro di Francesco Adami, La borsa del medico, storia degli strumenti che hanno cambiato per sempre la medicina e la rubrica Almanacco scientifico. È tutto per questa edizione che è stata realizzata da Francesca Terranova e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Tommaso Vinoni e Carlo Morello, ha collaborato in redazione Samantha Gon. 7:54, vi lasciamo le informazioni su traffico e viabilità regionali. Grazie per averci seguito, l'augurio di un'ottima mattinata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.